slick chick. See, a neat chick. The C's part of makes me tick. Mama, yeah, yeah, yeah. Clickety click, a slick chick. Yeah, yeah, yeah, yeah. The high heels on for the very first time. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Man, oh man, what a sight. Purple lipstick for the very first time. Man, oh man, it was a night. Everybody stopped on a dime to look. Even my heart, my heart got a shook. She's my clickety click a stick chick. She's Miss Rhythm. She's me for ride. Oh man, she is mine. I said, oh, I got a stick chick. She's a neat chick. Well, she what I make me tick. Mama, yeah, yeah, yeah, yeah. Clickety click, a stick chick. Yeah, yeah. Yeah, don't yeah, you yeah know she's a stick. Yeah, yeah. Mama, yeah, yeah. I stick yeah, yeah a chick. Yeah, yeah. Ah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. A stick chick. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mama, yeah, yeah, yeah, yeah. Clickety click, a stick chick. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I gotta yeah, yeah, play a little chick. Yeah, yeah. I don't yeah, yeah you know she's slick. Yeah. Bentornati, bentornate a una nuova puntata di Slick Chick su Radio Wombat, ovviamente, e oggi, giorno dopo di Ferragosto, ovvero 16 agosto 2017, sempre in diretta perché dopo un po' di vacanze adesso Slick Chick continua in diretta e Radio Wombat pure, piano piano, lentamente sta riprendendo le dirette. E spero abbiate passato un buon Ferragosto, tranquillo, riposato, un po' fresco, magari, spero per voi. Qui i vari wombat sono sparsi per il mondo, l'Italia e nelle varie grotte dove di solito i wombat si radunano. E piano piano, appunto, come vi dicevo prima, torneranno a questi microfoni. Intanto ci sono io che, siccome d'estate... Beh, in realtà in tutto l'anno, ma d'estate in particolare, si tende a abusarne. Oggi vi parlo di caffè. Caffè, beh, sì, fa molto caldo, ok, non diciamo banalità, per favore, ma il caffè comunque, caldo o non caldo, resta un qualcosa di cui non si può fare a meno, soprattutto nel nostro glorioso bel paese. E sì, lungo la puntata dirò altre banalità di questo tipo. Ma non so, vogliamo discutere se è più buono il caffè lungo americano, il caffè ristretto, il caffè macchiato, il caffè nero bollente, come direbbe la Mannoia, oppure il caffè shakerato, il caffè freddo, vabbè, vabbè. Insomma, quello lì, come lo preferite, come vi siete abituati negli anni, come avete sviluppato la vostra dipendenza, oppure anche per quelli che, bravi, sono riusciti a smettere da questo terribile vizio e questa terribile droga. Insomma, parliamo di caffè e iniziamo però con un brano che è veramente bizzarro. Io so che non ve l'aspettate. Lo so perché, nonostante la voce sia la stessa, però qui non siamo alla Fuga del Gatto e, Santa Slick Chick, non vi aspettate che io vi metta Johann Sebastian Bach. E invece sì, proprio per iniziare subito a bomba, eccovi Johann Sebastian Bach con una cantata che Bach ha dedicato interamente al caffè. Sì, sì, è andata così. In particolare nel mio splendido tedesco vi posso dire che l'opera in questione si chiama Schweig stille plaudert nicht, ovvero fate silenzio e non chiacchierate, o per quelli un po' più così che hanno bisogno di dati tecnici, BWV 211, nota però ai più come la cantata del caffè. Composizione che venne scritta tra il 1732 e il 1734 per essere eseguita al Caffè Zimmermann da parte del Collegium Musicum di Lipsia. La trama si può riassumere con un padre che rimprovera la figlia a causa del suo terribile vizio di bere caffè, ammonendola come se cioè dicendole che se non smetterà di berlo non le permetterà di sposarsi. Io ci avrei fatto un pensierino, fossi stata la figlia, ma vabbè, l'opera è andata avanti, siamo nel 700. La fanciulla ubbidisce all'ordine paterno e si sposa, ma nel contratto di matrimonio questa volpe pone la clausola che dopo essersi sposata potrà bere tutto il caffè che vuole. E tratta da questa composizione noi ci ascoltiamo un'aria per solo soprano che si intitola Hi, vai, smacht der Coffee Sube, chissà che ho detto in questo tedesco orribile, e in particolare lo sentirete, è abbastanza semplice discernere i vari strumenti, si tratta di un'aria per flauto e basso continuo, in questo caso clavicembalo, eccovela qua. Thank you. Che rubine che vi faccio ascoltare, ma non rimaniamo su questa china perché insomma non vogliamo prendere il posto della fuga del gatto, anche se io ovviamente continuerei all'infinito. E invece cambiamo genere, cambiamo ritmi e quant'altro. E ci ascoltiamo adesso i Grey Matter. Vabbè, ve ne parlerò, ma prima di tutto in realtà vi voglio introdurre un po' il pezzo, perché gran parte dei pezzi che ci andremo a sentire parlano del caffè da un punto di vista della loro dipendenza, cioè di come effettivamente si sentono dipendenti da questa sostanza e come il caffè ti aiuta ad andare avanti. E i Grey Matter, anche loro effettivamente la prendono da questa piega, non tanto la dipendenza ma quanto aiuto e gruccia al quale appoggiarsi per fare le cose. Ad esempio, quando vai a scuola o al lavoro o a fare qualsiasi altra di queste brutte cose e hai davvero, davvero, davvero, davvero bisogno di un caffè per farcela. Troppo più naturale sarebbe rigirarsi nel letto e continuare a dormire. Qualcuno potrebbe dire che forse bisognerebbe fare così e l'essere umano se la passerebbe molto meglio, ma qualcuno ci ha insegnato che invece il lavoro nobile, importante, quindi allora bisogna alzarsi e allora solo un aiutante artificiale può convincerti a farcela ad alzarti. Maledetti aiutanti artificiali. E i Grey Matter, dicevo, erano un gruppo attivo negli anni 80 nella scena di Washington DC, nella scena hardcore, il giro dei Minor Threat per capirsi. Comunque, quando parliamo di Washington DC e anni 80, di questo si parla. Tant'è che ovviamente escono per la Discharge, e vabbè, non c'era da dirlo forse. A un certo punto hanno virato insieme agli Embrace del resto verso lo stile emo, beh, di fatto l'hanno anche un po' inventato. Ma sentite questo pezzo del primo album, quanto spacca, Caffeine Blues. You are the new coffee generation. Because coffee is the calm moment, as you think. Coffee gives you the time to dream it. Then you're ready to do it. We'll be right back. torniamo adesso sempre su Slick Chick, sempre su Radio Wombat, ovviamente, a un caposaldo della musica da caffè, potremmo chiamarla così, che è Black Coffee. Black Coffee, uno standard jazz direi ormai riconosciuto un po' da tutti, composta da Sonny Burke con un testo di Paul Francis Webster, pubblicata nel 1948, quindi andiamo un bel po' indietro rispetto a dove ci avevano portato i Grey Matter almeno. E la prima versione portata in classifica è quella interpretata da Sarah Vaughan l'anno dopo, nel 49, quindi sì. E poi tante altre, in realtà ce ne sono di versioni, quella di Peggy Lee, Ella Fitzgerald, Judy London, Ruth Brown, Petula Clark, tantissime altre ancora. Ma la voce del si potrebbe definire contralto, diciamo di sì, di Sarah Vaughan, però mi è sembrata la migliore per dipingere un caffè nero fumante. Boh, vedete se siete d'accordo. Quindi Black Coffee, appunto, Sarah Vaughan. I'm feeling mighty lonesome, haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down broom. I'll never know a Sunday in this weekday room. I'm talking to the shadows, 1 o'clock to four, and Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Since the blues caught my eye, I'm hanging out on Monday, my Sunday dreams to dry. Now a man is born to go a-loving, a woman's born to weep and fret, and stay at home and tend her oven and drown her past regrets in coffee and cigarettes. I'm moaning all the morning and mourning all the night, and in between it's nicotine and not much heart to fight. Coffee, feeling low as the ground, it's driving me crazy. Waiting for my baby to maybe come Radio Wombat, Wombat Radio. Vi ricordo i nostri contatti che mi sono dimenticata di dirvi prima: il nostro sito wombat.noblogs.org, dove ascoltare i podcast, sentire le dirette soprattutto, e in generale tenervi aggiornati su le novità e le cose che riguardano questa radio. e poi la posta, la casella di mail, posta wombat@insiberia.net, alla quale potete scrivere per rivolgerci le vostre critiche. Ma che critiche avrete mai? Non saprei proprio. E i vostri sicuramente complimenti e quant'altro, anche per offrirci aiuto e magari proporci cose, collaborazioni, trasmissioni, quant'altro. E, ma proseguiamo nella nostra lunga bevuta di tazze di caffè. Siamo soltanto all'inizio e ora vi faccio ascoltare uno che effettivamente posso ammettere è uno dei miei bluesman preferiti, ovvero Mississippi John Hart. Il pezzo è Coffee Blues, piuttosto famoso, anche se non una delle sue canzoni più note, diciamo così, almeno non in Italia, non da noi. Nell'intro Mississippi John Hart racconta che lui era un grande devoto della marca di caffè Maxwell South e che c'era questa donna che gli preparava sempre il caffè. E poi un giorno questa donna se n'è andata e così lui ha iniziato a doverselo preparare da solo, ma non era la stessa cosa e ovviamente il punto non era certo il caffè, diciamo così. Ma in realtà questa è un po' il racconto, quello più romantico e quello che racconta lui nell'intro, insomma quello che ci vuole dire. Ma l'espressione loving spoonful, che sentirete ricorre spessissimo durante il brano, è diventata memorabile e tra l'altro ha dato anche il nome a un gruppo con cui ha collaborato lo stesso John Hart, ma vabbè. È diventata memorabile perché spesso Hart si esibiva in mezzo a un pubblico quasi esclusivamente femminile e alla frase "I love my baby by the loving spoonful", cantata con quella voce caldamente allusiva, tutte sapevano a cosa si stesse riferendo in realtà. Mississippi John Hart era un personaggio meraviglioso di una dolcezza infinita, secondo me, confermata dal suono della sua voce, incredibilmente non arrochita dagli anni di mezzadria e tabacco. E come è successo a molti altri bluesmen blues women, dopo la Grande Depressione se ne tornò tranquillamente nei campi come se niente fosse, riscoperto 20 anni dopo e mai più dimenticato. Tra l'altro trovate moltissime registrazioni originali su archive.org, basta che cercate su archive.org Mississippi John Hart, vi viene giù abbastanza il mondo e ne vale davvero la pena, ve lo consiglio. It's the coffee blues, I like a certain brand, Michael's House. It's good till the last drop, just like it says on the can. I used to have a girl cooking a good Michael's House. She moved away. Some said Memphis and some said Leland. But I found her, I wanted to cook me some good Michael's House. I understand if I can get just a spoonful of Michael's House, you'll be much good as 2 or 3 cups of this other coffee. I've got to go to Memphis, from there to Leland. I want to see my babe by the loving spoon, by the loving spoon. Well, I've just got to have my loving. I found her. Good morning, baby. How you do this morning? Well, please, ma'am, just a loving spoon. Just a loving spoonful. I declare I got to have my old loving spoon. My baby packed a suitcase and she went away. I couldn't let her stay for my loving spoonful. Well, I just got to have my loving. Good morning, baby. How you do this morning? Well, please, ma'am, just a loving spoon, just a loving spoonful. Well, I've just got to have my loving. or the preacher in the pulpit jumping up and down. He laid his Bible down for his loving. Ain't Michael's house all right? Well, I've just got to have my loving. You can bring me whiskey, you can bring me tea. Nothing satisfies me, man, but my loving spoon. My loving. Well, I've just got to have my loving. Good morning, baby. How you do this morning? Well, please, ma'am. Just a loving. Just a loving spoonful. Makes things all right with a loving. When your baby gets mad and she won't do right, go to bed at night. Get a loving. Well, a loving spoonful. Well, I've just got to have my loving. Good morning, baby. How you do this morning? Well, please, ma'am. Just a loving. Oh, the women's in Greenwood, they raise insane. It's all about that loving. That loving spoonful. Out of class, all right. That loving. E ora ci facciamo raccontare invece da Johnny Cash una strana storia di un uomo che trasporta grano e si ferma a riposarsi un attimo, a bere una tazza di caffè, a salutare il vecchio Jack che canta lo yodel e la vecchia Flo. Soprattutto a salutare la vecchia Flo, in effetti. Johnny Cash, dall'album Everybody Loves a Nut del 1966, Cup of Coffee. Man, it sure is good to hear you singing and yodeling and picking again, Jack Elliott. I've been driving, hauling a load of grain all day long. Got about 300 miles to go. Well, I just dropped in to have a cup of coffee, friend. Yeah, just dropped in to have a cup of coffee, friend. Don't you offer me none of that whiskey. Don't need no wine. Gotta get that semi down, man. So good to see you again, Jack. Been a long time. How's Flo? You still married old Flo, ain't you? just coffee. Thank you very much. We'll cool it down a little bit. What is it, man? Make it yourself? I like to hear you yodel. Just dropped in to have a cup of coffee, friend. Sound good on that, man. Well, that's the best part right there. I hope we ain't waking up Flo. Hey, Flo! Oh, well. Old Flo, she's a good one, boy. No, I didn't mean nothing. I just, you know, I knew Flo a long time ago. We went to school together, you know. Well, I just dropped in to have a cup of coffee, friend. Yeah. Dropped in to have a cup of coffee, friend. In the glass? You gonna pour it in the glass? Whoa, what's the matter? Man, put ice and it's gonna run over. Whoa! Oh, man, you got it all over the tablecloth. Making that stuff yourself? Is that what makes yogurt good? Just dropped in to have a cup of coffee, friend. Dropped in to have a cup of coffee, friend. Don't give me none of your liquor. I don't know why. Gotta get that semi down. I got a haul, a load of grain, about 300 more miles. I gotta get up and get out of here if I can just find my cat, my hat. Get out of here, cat. Burn cat. That's all right, I can make it all right by myself. I can make it. Leave me alone. Whoa, step right in her flower bed. Oh, she's gonna raise Cain tomorrow. Where's my truck at? I thought I had it across the street on this side of the street. Well, all right, you got an extra room? She won't mind. Okay, sure, now put the blanket down around my feet and get me up by 6 o'clock, because I don't want Flo to catch me sleeping in here, because boy, she can flat race, you know. Well, I just let my arms hang loose, warm as I can be. I want to just get me up about 8 o'clock, and I'll have a cup of coffee, you know, Flo too. Yeah, just drop in, I have a cup of coffee, friend. Hey, yodel for me one more time before I go to sleep. Yodel. It's sure like a yodel like that. Preziosi secondi di Descendants, Epitaph ovviamente, e ancora sulla dipendenza da caffeina, sempre ovviamente, erano i Descendants appunto con Coffee Mug, e l'album era Everything Sucks del 1996, e brani brevissimissimi come ci hanno abituato i Descendants. E allora adesso qui alzate il volume a palla della vostra radio, è necessario, fidatevi, non c'è molto altro da dire se non Otis Redding, Cigarettes and Coffee, l'album è The Soul Album del 1966. Early in the morning, about a quarter till three, I'm sitting here talking with my baby over cigarettes and coffee. And to tell you that, dog, I've been so satisfied. Since I've met you, baby, since I've met you, oh, oh, places that I've been around, and all the good-looking girls I've met, they just don't seem to fit in, no, in this particular set, yeah. But it seems so natural, darling, that you and I are here, just talking over cigarettes and drinking coffee. Oh, you know, my heart cries out, love that last I found. whole life around. And oh, I could be my whole life would be, yeah, if you would take things under consideration and walk down this aisle with me. I would love it, yeah. Well, I say it's so early in the morning. Ooh, it's a 2:45. We're sitting here talking over cigarettes and drinking coffee, that long. And I'd like to show you where I've known nothing but good old joy. Since I met you, darling, honey, since I've met you, baby, yeah, I would love to have another drink of coffee now. And please, darling, help me smoke just one more cigarette now. Don't want no cream and sugar, 'cause I got you now, dog. But just let me enjoy, help me to enjoy this good time that we'll have, man. It's so early in the morning, so early in the morning, and I got you, and you got me. Ciao. Ciao, tu sei Steve. Steven, ciao. Siediti. Roberto? Mi sento un po' agitato. Sì, un po' agitato. Sono un po' agitato anch'io. Sì. Molto agitato. Ah, che stai bevendo? Caffè? Caffè, sì, a me piace tanto, a te? Adoro il caffè. Ti piace anche a te? Lo adoro. Steve! Steven. Steve, sì. Vado matto per il caffè. Cosa pensi di fare, Steve? Rilassarmi, stare un po' qui. Magari fumare una sigaretta. Sì? Sai, caffè e sigarette stanno bene insieme. Benissimo. Tu pensi di berne troppo? No, il caffè fa parecchio bene alla salute, Steve. Io lo bevo sempre prima di andare a dormire. Bevo un sacco di caffè prima di dormire. Mi accelera i sogni. Un po' come a Indianapolis quando montano le telecamere sulle auto da corsa, sai? Tutto fila via a una velocità pazzesca. Sogno dopo sogno. Il giorno dopo mi chiedono: cosa hai sognato? E che ne so, ci vorrebbe una vita. Non ho tempo di raccontartelo. Te fumi, Steve? Solo quando bevo caffè. Conosci la mia mamma? Se conosco tua madre? Sì. No, almeno non credo. Il caffè dovrebbero congelarlo. Dovrebbero metterlo nella vaschetta del ghiaccio e infilarci dei bastoncini. Per i bambini, così si abituano fin da piccoli a berlo. Un po' come un ghiacciolo. Un ghiacciolo alla caffeina. Giustissimo, non ci ho capito niente. Però è giusto, sono d'accordo, Steve. Straight up with cream, you know I'm a fiend for that bean of caffeine. Caffeine makes you happy. Caffeine certainly does get you high. Caffeine is bound to make you snappy. You know, I know, you know what I mean. When I wake up in the morning, whoa, there's only one thing I want to do. this to get that water boiling. I whip up a mess of brew. That's so fine. You hear those beans grind. So fine what coffee can do. It's so, so fine. It is the richest kind. Mrs. Olson, I'm indebted to you. Caffeine. Now what makes you happy? Caffeine. Certainly does get you high. Caffeine. It's bound to make you snappy. You know, I know you know what I mean. I went over there to Coffee Connection in Harvard Square just to score myself a few beans. I was after perfection. It was a coffee lover's dream. I want it real strong, not too bitter. It's gotta last long and see me through. I want it real strong, but I don't want the jitters. I got to be high and cool. Caffeine. Now it makes you happy. Caffeine. It certainly does get you high. Caffeine is bound to make you snappy. You know, I know you know what I mean, little soy. Cappuccino, little espresso and a lemon peel. I love that coffee beano. I dig the way it makes me feel. And in the nighttime, when the day is over and I'm tired of the work and grind, I put some coffee in my liquor, make it a little thicker. Brings joy to the coffee achiever's mind. Caffeine, now it makes you happy. Caffeine certainly does get you high. Caffeine. Caffeine is bound to make you snappy. You know, I know, you know what I mean. Is that old caffeine? Caffeine. You know that it's supreme. Caffeine. Got to have my coffee. I turn it mean. Caffeine. Put it on the rocks or straight up with cream. You know, I'm a fiend for that bean of caffeine. I'll take another cup. Patti Lurkin con Caffeine, avrete intuito. L'album era Step Into the Light, 1985. E prima ancora, dopo Otis Redding, ci siamo ascoltati un estratto da Coffee and Cigarettes di Jim Jarmusch. Ovviamente non potevo non proporvelo. E beh, se non l'avete mai visto, correte subito, e se no, spero l'avrete riascoltato con piacere. Adesso invece cambiamo completamente, perché andiamo ai Leg Wagon con Mr. Coffee dall'album Do del 1992, ma si tratta di un altro risveglio pieno di caffè. Mi fa ridere come tutti questi americani drogati di caffè poi quando arrivano in Italia impazziscono con una sola tazzina di espresso, come dicono, altro che American Way, sono dei dilettanti. day. Drinking coffee, I do coffee, drinking coffee every day. Drinking coffee, I do coffee, drinking coffee every day. Questi erano i Leg Wagon, sempre su Slick Chick, per l'ultima, diciamo gli ultimi pezzi di questa scaletta dedicata al caffè. E adesso passiamo a Ella May Morse. Ella May Morse è poco nota da noi in Italia, come del resto direi quasi tutte le cantanti donne del rock and roll. Eppure c'è chi dice sia stata la prima donna a cantare rock and roll. Sicuramente è tra quelle che hanno traghettato la musica e la cultura blues degli anni 40 verso i ritmi più scandalosamente rock and roll esplosi poi negli anni 50, nei primi 50. La sua musica è uno strano mix, infatti, e merita di essere riascoltata. Lei del resto di tazze di caffè ne beve 40, ben 40. Ella May Morse, 40 cups of coffee. And start to combing out my hair. I drink 40 cups of coffee, 40 cups of coffee, 40 cups of coffee waiting for you to come home. A quarter to 12, you're still not in. The way you run around is the dog on the sin. I drink 40 cups of coffee, 40 cups of coffee, 40 cups of coffee waiting for you to come home. A quarter to 3, I start watching the clock. The phone won't ring, so I'm waiting for your knock. I drink 40 cups of coffee, 40 cups of coffee, 40 cups of coffee waiting for you to come tornare ancora più indietro, ma senza discostarci poi tantissimissimo, come vedrete, arriviamo a Annette Henshaw. Il pezzo si intitola You're the Cream in My Coffee, un pezzo del 1928 che è un pezzo di Broadway noto anche per essere stato cantato anni dopo dalla Dietrich, da Marlene Dietrich, nel suo indimenticabile, come dicono i critici, Angelo Azzurro. E ascoltiamocelo, tutt'altra registrazione, sentirete un tantino la differenza. ¶¶ telling me you love me. It gives me such a thrill. I know it always will. My head is spinning. I'm just from learning your estimation of me. And as for you, I'll say, I feel the self-same way. You're the cream in my coffee. You're the salt in my stew. You will always be my necessity. I'd be lost without you. You're the starch in my collar. You're the lace in my shoes. You will always be my necessity. I'd be lost without you. Most girls tell love tales, and you'll find each phrase dovetails. You've heard each known way. This way is my own way. You're the sail of my love boat. You're the captain and crew. You will always be my necessity. I'd be lost without you. You are the cream in my coffee, and you are the salt in my stew. You will always be my necessity. I'd be lost without you. You are the dark in my collar, and you are the lace in my shoe. You will always be my necessity. Oh, I'm wild about you. You give life savor, bring out its flavor. So this is clear, dear, you're my Worcestershire, dear. You're the sail of my love boat. You're the captain and crew. You will always be my necessity. I'd be lost without you. That's all. Staring at the walls. nutrirsi di rabbia e caffè, passare il giorno a fissare il muro, confusione e noia in un intricato nervosismo quotidiano, e siccome mi piace farvi saltare sulle sedie, mo vi siete beccati lì Black Flag con Black Coffee dall'album Sleep It In del 1984. D'altra parte la revancia è in vacanza fino a settembre, si fa quel che si può. E siamo arrivati all'ultimo pezzo, per darvi bella buonanotte. Mica andrete a dormire alle 22:03, spero di no. Beh, non lo so, fate quel che vi pare. In ogni caso io sì, finisco qui la puntata di quest'oggi, ma vi do appuntamento ovviamente a mercoledì prossimo, non vi abbandono più, sempre alle 21. E vi ricordo anche che continuano le repliche anche di Slick Chick, ma anche di tutte le altre trasmissioni, in particolare quella di Slick Chick è in replica il, se non mi ricordo male, il venerdì, esatto, il venerdì alle 14 e il sabato alle 16. Quindi se l'orario notturno non vi è congeniale, pazzi, potete beccarvela o il venerdì o il sabato in orario un po' più pomeridiano. E così vale per le altre trasmissioni di Radio Wombat, che potete trovare in replica a coprire quasi tutto il palinsesto, quasi tutte le 24 ore che ci restano. Ma in realtà, insomma, se no, se non bastano le repliche, vi beccate anche un bel po' di bobinone con della buona musica, che giuro, prometto e spergiuro che a un certo punto cambieremo. Sì, è giunta l'ora. Ma detto ciò, ci resta l'ultimo pezzo da ascoltarci. E allora, nello street punk, il punkoi, come preferite definirlo, beh, ci sono un po' di sfumature, ma vabbè, quello fatto bene, però c'è sempre qualcosa, secondo me, almeno di amaro e commovente. Niente assoluzione, niente pettorali gonfi, niente cliché ribelli, molta malinconia, di quella bella però. Quindi vi lascio in buona compagnia, insomma, e ringrazio anche chi mi ha fatto conoscere questo gruppo, i Dalton con Caffè dall'album Come Stai del 2015, ovviamente della El Nation. Un saluto e a mercoledì prossimo, ciao ciao! Giù le dita, dammi ultimo te, lasciami nel mondo senza un perché, in un cortile o sotto l'acquazzone, con i tuoi amici dentro un portone, uno, due, tre, giù, giù, salta chi zoppa e a crescere sei tu, per quei pugni al muro che hai dato da bambino, erano tutti i soldi tranne il tuo vicino, chiediti tu come stai, chiediti tu come stai? E poi chiudi forte gli occhi mentre bevi il tuo caffè. L'amaro nella bocca, un altro giorno dedicato a te. Ora, la vita che toglie, la vita che dà, a fianco le coperte si son fatte fredde, lo scoglio si consuma ma il mare non si arrende. Regina, reginella, regina, reginella, la pelle che invecchia non vede di più la stella, piano, piano, piano il sogno che declina, nel cuore dei rimpianti in tasca cocaina. Chiediti tu come stai, chiediti tu come stai, e poi chiudi forte gli occhi mentre bevi il tuo caffè. L'amaro nella bocca, un altro giorno dedicato a te. E poi chiudi forte gli occhi mentre bevi il tuo caffè. L'amaro nella bocca, un altro giorno dedicato a te.